cominciamo la seduta di scolazione che sarà presa, sempre più girata uno degli aspetti importanti della storia di organizzazione del territorio in Italia, e per questo abbiamo un'altra attenzione del professor Baranini che riguarderà credo l'Italia Padana. A questa relazione, come un po' l'altro giorno, si aggiungerà una comunicazione su un aspetto, su una regione italiana che mi piaceva restarsi fuori, che stava fuori tutta l'Italia centrale, è venuta meno la partecipazione del professor Zenobi, e il dottor Zotti farà quindi un intervento sull'area toscana e fiorentina. Intanto cominciamo con la relazione del professor Baranini. Sì, data la complessità e l'ambiente della materia, anche la difficoltà di sintetizzarla, ho distribuito un testo ordinario, ovviamente mi scuso a singolare di errori e di imprecisioni, in modo da poter più agevolmente anche tagliare e sintetizzare qualche passaggio e mantenere la relazione limite dal punto di vista del temporale. Ecco, i limiti geografici del territorio che ho preso in esame sono costituiti dalla Marca Trevigiana, dalla Lombardia e dall'Emilia, con qualche accenno al Piemonte, cioè in sostanza dall'Italia padana comunale. I limiti cronologici sono quelli proposti dal titolo, dall'arco cronologico del nostro seminario, anche se, come vedremo subito, per una reale comprensione del fenomeno occorre in qualche modo prendere le mosse dal secolo XII, cioè dagli inizi dell'età comunale. Mi sono orientato verso una comparazione, così un'analisi su larga scala, molto rischiosa, anche perché appunto mi è sembrato che la situazione storiografica sia carente, sia ricca di analisi monografiche su singole città, ma sotto il profilo della sintesi si orienti piuttosto appunto a sintesi generalissime che riguardano l'intera Italia comunale nel suo complesso e che fatalmente sono portate a sottolineare piuttosto appunto generalissime omogeneità che non a sottolineare invece articolazioni regionali più definite. Di riferimento, appunto, uno dei punti di riferimento è la sintesi di Pini pubblicata una decina d'anni fa sulla storia dell'Italia dell'Italia. Pertanto, appunto, proverò a muovermi in questa direzione basandomi su una ricerca diretta per alcune città dell'area veneta e lombarda e poi ovviamente su una bibliografia di Sagna determinata. Ecco, mi ritengo esentato da comparazioni con la situazione transalpina e mi ritengo esentato anche dal richiamare, era stato fatto da cittadini nella lezione introduttiva, alcuni dati fondamentali, basilari, no? Che condizionano l'organizzazione del territorio del distretto in quest'area, cioè lo scarso numero dei centri cittadini presenti, la notevole estensione di questi territori, di questi distretti, la mediamente alta consistenza demografica di queste città. Ecco, dette queste cose già preliminari, inizio appunto la trattazione delle proprie. Nel corso del XII secolo i comuni cittadini italiani vengono a svolgere la loro opera di ricomposizione territoriale, invertendo la tendenza alla papillarizzazione, alla frammentazione delle prerogative pubbliche, in un contesto, come tutti sappiamo, che è molto complesso e non hanno affatto l'esclusiva appunto di questo processo. Non mi occupo ovviamente qui di tali aspetti, non mi occupo per esempio del fatto che la signoria territoriale nel corso del XII secolo continua a svilupparsi, continua ad affermarsi contestualmente all'affermazione cittadina, e non mi occupo neppure in modo specifico delle caratteristiche dei ceti dirigenti delle città comunali italiane nel XII secolo. È chiaro che i differenti rapporti, i differenti raccordi tra vescovi, elite cittadine dell'età consolare, dislocazione, rapporti appunto di questa aristocrazia nel territorio. È chiaro, dicevo, che tutto questo condiziona anche il processo di costruzione, di organizzazione del distretto cittadino, no? Ci sono queste differenziazioni, ma la civita si presenta comunque di fronte ai propri nemici esterni, l'imperatore o i comuni concorrenti, e quindi la civita afferma nel territorio in qualche modo una facciata, presenta una dimensione, una facciata unitaria, della quale appunto quello che è stato definito un ambito progetto di organizzazione territoriale è l'elemento importante. In questa prima parte del mio intervento sottolineerò appunto alcuni tratti che fra il XII e il XIII secolo, all'incirca fino alla metà del 200, sono costanti, sono omogenei nell'atteggiamento, nelle linee, nelle iniziative che il comune cittadino prende nei confronti del territorio. Ecco, il primo problema, il primo punto da chiarire è che l'ultimo scorcio del XII secolo manifesta una tendenza abbastanza chiara alla definizione di confini, di ambiti territoriali cittadini definiti. Si risolvono più o meno definitivamente questioni di confine secolari, lo provano per esempio una serie di diplomi di Enrico VI a favore di diverse città come Brescia o Pavia, dove si elencano le città soggetti, comuni, le località, i territori del distretto soggetti al comune cittadino. Lo prova una serie di mediazioni della Lega Lombarda che definisce appunto questioni tra le diverse città. Lo può provare anche per esempio una fonte ideologicamente e propagandisticamente pregnante come la leggenda dei Sicili Comunali, che appunto in qualche caso può essere datata a quest'epoca, che proprio a testimonianza di questo sforzo di definizione fa riferimento a oggetti talvolta geograficamente trascurati, no? È chiaro che è un discorso da prendere con le molle. In questi stessi decenni, per esempio, a prova della perdurante fluidità dell'organizzazione, proprio di questa indefinitezza, diciamo, dell'organizzazione territoriale dell'Italia padana, sta per esempio la rapida creazione del distretto di Crema, ed è chiaro poi che neppure in questi decenni viene meno l'orientamento dei comuni cittadini a espandersi oltre i confini del comitatus della diocesi, orientamento all'espansione al di fuori dei confini del comitatus della diocesi, e come tutti sappiamo è presente fin dagli inizi della formazione. Ecco, a questo riguardo appunto a questo concetto, a questa idea della tendenziale definizione di confini, potrebbero citare parecchi documenti di grande importanza, la Descriptio Cogitatis Papiae, per esempio, oppure il primo documento, il documento che apre il Liber Iurium del Comune di Verona, in quo omnia acta et ordinamenta civitatis Verona continentum, no? Un documento che contiene l'elenco delle 280 ville o distringuntur ed ex antiquo distringuebantur per Veronam. E non è sottigliezza appunto sottolineare che si dice distringuebantur per Veronam, non per comune Verone, perché c'è un rinvio consapevole ad una ipotetica antica e non definita pienezza di diritti esercitata nel passato, no? Ecco, documenti di questo genere, che sono appunto relativamente frequenti, ripeto, sono interessanti soprattutto appunto per gli schemi mentali che rivelano, perché ci fanno capire che la rivendicazione è subito piena, cioè è subito chiara appunto la volontà del comune cittadino di affermarsi appunto sulla totalità del territorio che, ripeto, si viene definito, no? Anche a Bergamo, già nei primissimi anni del 200, si prevede il giuramento annuale di fedeltà di tutte le comunità del contado della Contessa Bergamasca, no? Sacramentum omnium locorum, sacramentum omnium locorum virtutis communis et pergamena, ecco, che è previsto appunto già generalizzato prima del 1215. Quindi definizione di questo ambito di confini. Il problema adesso qual è? Il problema è di vedere quali sono gli aspetti concreti, quali sono gli strumenti concreti che il comune cittadino adotta per sostanziare questa affermazione di sovranità e per concretizzare quello che in omaggio uno studio fondamentale di Giuseppe Cottini, appunto, possiamo continuare a chiamare processo di comitatività, no? Su molte cose gli studiosi che hanno dedicato appunto analisi monografica ai singoli comuni cittadini sono ormai d'accordo. Si constata un uso limitato della forza per l'acquisizione del controllo del territorio distrettuale, si constata una non selettività degli ambiti di espansione, nel senso che il comune cittadino si afferma a macchia d'olio dove può. Ecco, l'unica selettività che si può forse individuare, ad esempio per comuni come Piacenza, è la priorità accordata ad aree distratte. Si è anche d'accordo sul fatto che gli strumenti politico-giuridici sono estremamente vari, no? I patti di cittadinanza, per esempio, sono uno dei più noti e dei più diffusi, anche se la geografia dei patti di cittadinanza è tutt'altro che uniforme nella stessa Italia padana. Ecco, su tutte queste cose che do un po' per scontate non mi soffermo, no? Preferisco invece appunto concentrare l'attenzione su quelli che sono interventi di concretizzazione della sovranità dell'autorità comunale una volta che questa autorità sia stata riconosciuta. La fiscalità, il controllo militare, l'esercizio della giurisdizione, l'invio dei rappresentanti cittadini nel territorio. Oggi nessuno sottoscriverebbe un'affermazione come quella che facevano 50 anni fa i Mazzi a proposito del distretto bergamasco, secondo la quale nel 1222 appare veramente costituita la giurisdizione piena dell'Italia, di Bergamo comunale e del suo territorio. No? Questa è una territorialità eccessiva, ovviamente, no? È fino a banale dirlo, no? Però nel caso di Bergamo e anche nel caso di diverse altre città, molto spesso queste affermazioni fatte dagli normalmente appunto dalla storiografia municipale fra 8 e 900, molto spesso queste affermazioni si agganciano cronologicamente a provvedimenti di forte impatto simbolico e anche di grande importanza amministrativa che sono databili in qualche modo con precisione. Ecco, alludo soprattutto alla ripartizione, alla geografia amministrativa e fiscale dei distretti cittadini. No? Alla ripartizione del distretto in quartieri, alla creazione appunto di quadri territoriali intermedi fra il territorio e il distretto nel suo complesso e i singoli villaggi e castelli, no? La divisione del territorio in quartieri sul prolungamento delle ripartizioni urbane o in squadre o in fasce o anche in aree individuate da caratteristiche geografiche, come accade per esempio nel territorio veronese o nel Piacentino, è un provvedimento appunto che molto spesso, no, ha un evidente appunto impatto anche dal punto di vista simbolico. No? Ecco, sono provvedimenti che rispondono all'orientamento generale, sono molto diffusi e si orientano su schemi costanti e contrastano con l'empirismo, con la casualità che presiedono invece, come vedremo fra un attimo, all'invio dei rappresentanti cittadini del contratto. È significativo che in parecchi casi la lista di ampie circoscrizioni fiscali definite in questa fase avrà non solo efficacia immediata, ma anche una vitalità lunghissima, ben superiore al declino dell'autonomia politica cittadina, vi sarà ancora effettivamente operante persino in età moderna tra 4 e 500. L'adozione di queste misure si disloca nelle varie città su un arco di tempo abbastanza lungo, a partire dall'ultimo terzo XII secolo, e poi con particolare intensità noi ritroviamo nei primi decenni del successivo. Molto meno generalizzata invece è l'adozione di strutture amministrative basate sul supporto territoriale delle circoscrizioni ecclesiastiche, che di solito sono a un livello ancora inferiore, intermedio tra i quartieri e la singola villa, la singola comunità. Così accade per esempio a Piacenza o a Treviso. In altre città si ha sì un riferimento alla circoscrizione ecclesiastica, per esempio nella tecnica ubicatoria notarile, ma solo nella fase di transizione ad un definitivo ordinamento amministrativo di matrice comunale. No? Capita appunto che si possa datare l'abbandono delle denominazioni in plebatum, un territorio plebis per la microtoponomastica locale agraria, no? Capita che si possa datare l'abbandono di questa denominazione e l'adozione appunto di formule rigide, standardizzate, che si affermano nella prassi notarile di un determinato secolo. Ecco, quindi importanza notevole e generalità di questa diffusione di questa suddivisione in quartieri o in fasce o in facce o in squadre del territorio del distretto, ben inteso anche ben prima che tutte le comunità siano allo stesso modo pleno iure soggette all'autorità del comune cittadino. Questa suddivisione per quartieri è connessa o precede, in qualche modo appunto si raccorta, con la regolarizzazione di procedure di estimazione, con l'introduzione di fatto appunto di un estimo del distretto. Anche questo è un aspetto evidentemente di grandissima importanza, sulla quale siamo abbastanza bene informati appunto sin dalla primissima età comunale per evidenti motivi di struttura della documentazione. È ovvio che in un contesto documentario nel quale predomina ancora largamente la documentazione ecclesiastica sia più facile la conservazione di un documento che attesta, sia pure indirettamente, un'imposizione fiscale sulla villa del territorio, di quanto non sia invece probabile, a caso, l'attestazione dell'invio di un podestà o di un vicario cittadino nel distretto. E lo prova il fatto che dove si procede analisi sistematiche della documentazione del XII secolo si arriva talvolta ad anticipare fortemente appunto l'attestazione su procedure di estimazione del distretto. Per esempio il Barbieri, studiando i notari di Pavia, ha dimostrato che nel 1159 già si procede a stimare per libra una estimazione in alcune località. Ecco, e ovviamente si potrebbe seguire la comparsa dell'estimo rurale nei decenni successivi a Treviso, Verona, Reggio Emilia, Asti, Parma e così via, anche con l'introduzione, con il raffinamento di meccanismi impositivi, no? Fino ad arrivare alla prima documentazione seriale e descrittiva, che come è noto quella bolognese, che ha una serie di caratteristiche tecniche, l'esistenza di una specifica magistratura di impositore secondo il TARN del contado, l'orientamento a limitare le esenzioni dei nobili e a vagliare comunque le posizioni degli esenti, ha una serie di caratteristiche tecniche che presuppongono già un approccio fortemente organico, meditato appunto al problema. Ecco, ci sono altri aspetti dell'ordinamento fiscale che si avvia nella prima metà del 200, nel quale sarebbe interessante definire meglio la geografia e la cronologia. Per esempio, in una prospettiva di lungo periodo, sarebbe credo possibile sapere qualcosa di più sui primordi dell'imposizione del sale. Specialmente per le città tributarie del sale marino e veneziano è molto studiato il commercio e la produzione del sale, ma meno il riscontro, diciamo così, perlomeno nelle fasi iniziali, proprio nella fase decentesca, il riscontro fiscale appunto di questa imposizione. No? Così pure sarebbe di grande importanza avere una cronologia, una articolazione più precisa della introduzione di normativa annonaria analitica, no? Descriptiones prodorum et vini, a mia conoscenza le prime delle quali abbiamo notizia sono della seconda metà del, la seconda metà del, del, del XIII secolo. Ecco. Fruttuosa credo che si rivelerebbe anche per il primo 200 un'indagine sistematica sull'imposizione, sulla regolamentazione e sulla distribuzione degli oneri, delle azioni, degli oneri non monetari addossati alle comunità del distretto. A Padova, per esempio, già nel 1234 abbiamo l'attestazione dell'esistenza di divisore, divisore salvoriorum villarum, addetti appunto ad una ripartizione di questi oneri fra le ville, distribuita per quartieri, secondo in consegnazione c'è scritta in volumine, in volumine, volumine statuto. Ecco, non mi soffermo su altri aspetti che sono di grande importanza, il quale è stato già fatto qualche cenno nei giorni scorsi, come la tematica delle ville nobili e delle ville, e delle ville, delle ville franche, e passo invece ad un altro punto che ho anticipato prima e che è di grande rilievo, cioè al tema della dislocazione in periferia nel distretto cittadino di rappresentanti del comune urbano attivi sul piano militare e giurisdizionale. Ecco, accennavo prima che si tratta di una tematica che è difficile indagare e che appunto anche nella storiografia è stata meno approfondita per evidenti condizionamenti documentari. Ad archivi comunali che sono propensi a conservare piuttosto di iura per la documentazione ordinaria, finché non inizino archivi d'ufficio, è facile che sfuggano queste notizie e in ogni caso gli statuti della prima metà del 200 non forniscono quei quadri sistematici delle sedi giurisdizionali minori e dei castelli e delle guarnigioni che poi ritroviamo, anche se non spesso e non sempre, nelle redazioni del secondo 200 e poi ma a parte il problema di fonti, mi pare appunto chiaro dall'analisi appunto di diverse situazioni, di diverse situazioni, situazioni, situazioni locali, che non ci sia in alcun modo una volontà di sistematicità, non ci sia in alcun modo una volontà da parte dei ceti dirigenti cittadini di prendere su questo, di prendere su questo, su questo aspetto, no? Normalmente a fronte di un piccolo numero di ufficiali inviato ad autorità del comune urbano, ve ne possono essere altri inviati a richiesta delle comunità soggette. Tra l'altro uno dei tratti significativi sarà proprio l'evoluzione del podestà del distretto, da podestà del comune rurale a podestà che ha un mansionario preciso che è inviato appunto dalla, dalla città ed è il rappresentante esplicito del comune cittadino. L'unico minimo comune denominatore è forse l'invio che è molto precoce appunto di magistrature militari e poi civili nelle zone montane, nelle zone a reggimento comunque comunque problematico, che noi riscontriamo in tutti i distretti dell'area appenninica. Ma quanto sia estranea al ceto dirigente comunale una prospettiva di sistematicità, il controllo serrato e puntuale del territorio mediante propri funzionari, fino almeno alla seconda metà del 200, e quanto sia radicata invece quella che potremmo chiamare la mentalità dei cittadinastici, lo può provare per esempio un esempio, lo può provare un esempio parmense. Se una famiglia signorile garantisce la disponibilità del castello, guarnito o sguarnito, allora il podestà non venga inviato e se protegge un gravello comune parme, le potestate idiegendo. Quindi in qualche modo l'invio del podestà è sentito come un gravamen piuttosto che come l'esercizio appunto di una prerogativa. Nella stessa Bologna, che ha, come accenneremo, una particolare precocità e maturità nell'organizzazione delle sedi giurisdizionali del distretto, nella stessa Bologna gli statuti del 1250 non danno per scontato che si elevano annualmente i potestati. si consiglia, si consiglia drammatico degli sistemi. Quindi allora, concludendo questa prima parte del mio intervento, affermazione di sovranità e tendenziale definizione territoriale dei limiti del distretto, introduzione pressoché sistematica di ripartizioni territoriali funzionali alle imposizioni fiscali, intermittente o irregolare presenza di giurisdicenti e di presidi militari nel distretto. Tutto questo per quanto riguarda la prima metà del XIII secolo. Ecco, questi settori che ho rapidamente toccato sono, ripeto, quelli nei quali i comuni e i cittadini intervengono in misura tendenziale, con un orientamento in qualche misura omogeneo, sono in qualche modo un minimo comune denominatore. Del resto potremmo ricordare che questi decenni coincidono con la fase cosiddetta del comune podestarile. Potremmo ricordare che questo è un momento essenziale per la circolazione di modelli politici e culturali, di creazione di una comune coinè politica. Credo anche che leggendo con attenzione i trattati del regime di Civitatis si possa forse trarre qualche spunto, anche se molto limitato, per quello che riguarda il regime del districtus oltre che il regime di Civitatis. Quindi, nei termini grossolani in cui era possibile farlo appunto in pochi minuti, abbiamo disegnato una serie di settori nei quali c'è un intervento appunto tendenzialmente omogeneo da parte dei comuni. Il problema che ora si pone è quello di calibrare omogeneità e scarti nella fase successiva, a partire dalla seconda metà del 300, quando cambia non solo il quadro politico generale, ma anche si modifica fortemente la situazione politica all'interno delle singole realtà cittadine. Il riferimento al quadro politico generale si imperdia naturalmente più che sulla morte di Federico II, i cui tentativi di ricostruire quadri territoriali coerenti a prescindere dalle città si erano rivelati nell'Italia padana delle Itali, si incentra invece sugli anni 60 e 70, appunto sulle percussioni delle vicende generali, della storia generale appunto in Italia padana in questi anni. E quanto alle vicende politiche e sociali interne, questo è un momento capitale, è un momento importante appunto della storia dei comuni cittadini italiani. È nozione comunemente accettata che a partire da questi decenni si aggravino quei ben noti fenomeni di instabilità delle istituzioni politiche cittadino-comunali che portano, in molte aree della pianura padana, ad una lunghissima e travagliata fase di lotte cittadine ed intercittadine che hanno ovvi contraccolpi sul controllo fiscale, giurisdizionale e militare dei singoli distretti. Si sono usati spesso concetti come tramonto del sistema degli stati cittadini, maglie di una rete di stati cittadini, rovine degli stati cittadini, controllo debole e incerto della città sul contado in molte aree a partire dalla seconda metà del 200. Ora, non c'è nessun dubbio sulla validità complessiva di queste affermazioni, sempre ricordando che le maglie di questa rete, identiche quanto le rivendicazioni di sovranità, non hanno in realtà nella prima metà del 200 la stessa tenuta, la stessa consistenza. Non c'è nessun dubbio perché appunto è adesso che si innesca quel processo che porterà in prospettiva all'affermazione di poteri territoriali più forti nel corso del 300, di compagini statali più estese, anche se fortemente eterogenee. Tuttavia, è vero, per molte città le difficoltà delle istituzioni comunali nel controllo del distretto a partire dalla seconda metà del 200 sono evidentissime a seguito delle lotte di fazione, del fuoriuscitismo, del rinnovato e in certe aree mai venuto meno o addirittura sviluppatosi nel corso del 200 vigore della signoria rurale. Per molte città, ripeto, le difficoltà sono evidenti, anche se queste difficoltà non si manifestano agli stessi livelli in tutti i settori dell'ordinamento amministrativo. Competenze in materia agraria e fiscale possono, per esempio, sopravvivere in qualche misura anche in distretti cittadini che dal punto di vista stricto sensu politico non sono più direttamente controllati dal comune urbano. Questo, ripeto, appunto, è evidente, ci darò testimonianza appunto più tardi, trattando soprattutto della situazione lombarda. D'altra parte, però, è anche vero che in non poche città dell'Italia padana, sotto differenti regimi politici, prosegue nella seconda metà del 200, senza soluzione di continuità, eppure con ritmi molto diversificati, una dinamica positiva, una dinamica costruttiva, no? Quella dinamica appunto che era stata impostata e avviata nei decenni precedenti. Ecco, all'analisi di queste due tendenze di fondo, meglio non parlare naturalmente di modelli, dedicata appunto alla seconda parte del mio intervento. Ecco, dedico le prime rapidissime osservazioni all'area veneta, ai distretti di Verona, Padova, Vicenza e Treviso, non solo perché sono realtà che ho studiato di prima mano, ma perché disegnano delle tipologie lineari se non esemplari. Nel Veneto c'era stato anche qui l'influenza, il tentativo di ripristinare un'organizzazione territoriale che prescindesse dalle città. C'era stata la dominazione del terreno da romano, che non aveva d'altra parte avuto quell'impronta territorialmente antiurbana che di solito la storiografia tradizionale appunto gli assicura. Dopo appunto la seconda metà del secolo, a partire dal 1260, la marca trevigiana della seconda metà del 200 si presenta come un'area fritta di forze in grado di agire su scala regionale. Non l'impero, che è assente, non Venezia, e soprattutto non più le grandi famiglie di milites di alta tradizione militare e pubblica, che nel cinquantennio, nel secolo precedente, avevano destabilizzato o avevano inceppato, diciamo così, l'azione dei comuni cittadini nell'ordinamento del contatto. Non troppo paradossalmente, uno degli avvenimenti di maggiore rilievo della storia politica veneta del 200 è la conquista estense di Ferrara, cioè lo spostamento verso il Po dal centro politico degli estensi, e quindi il loro abbandono rapido e tutto sommato totale appunto di un ruolo politico attivo. Ecco, allora, appunto, nell'assenza di poteri in grado di agire su scala regionale, si creano nelle città, nei distretti, nel territorio veneto, le premesse per uno stabile assentamento degli ambiti di egemonia e per una definizione pressoché irreversibile dei confini di distretto. Le famiglie aristocratiche che controllavano costellazioni signorili pluricastellane e zonali sono ora indotte a gravitare in modo definitivo, in qualche modo esclusivo, su una e una sola città, che sono agevolmente catturabili sotto l'egemonia urbana. Il Campo Santiero, il Tempesta, tutte famiglie che avevano giocato sui confini fra Padova e Treviso sono costrette di fatto dalla nuova situazione politica a fare una scelta. Questa è una svolta fondamentale che è percepita anche nelle sue parti, anche per Treviso. Doppi giochi come quelli che Sarimene imputa a certi rami di Palla Vicino non sono più possibili nel Veneto della seconda metà del Treviso. Allora, a prescindere dai regimi politici, signorili o democratici comunali, i comuni cittadini veneti portano avanti nel territorio distrettuale, nella seconda metà del 200, ripeto, politiche sensibilmente omogenee, costruttive, intensificazione della presenza dei rappresentanti cittadini nelle podesterie e nei vicariati, riduzione dei castelli a pura sede di guarnigione, definitivo inquadramento fiscale delle comunità rurali, imposizione di una normativa annonaria abbastanza precoce e abbastanza organica, come è stato di recente sottolineato, e così via. Ecco, ometto qui di analizzare praticamente, come pure ho fatto appunto nel testo scritto, seppure in sintesi, le vicende delle singole città. Ricordo appunto soltanto che ad esempio Padova e Vicenza, pur con sostanziali differenze, nella seconda metà del 200 impostano un processo che li porterà alla fine del secolo successivo, ad avere due dei distretti più razionalmente controllati dell'intera pianura padana, almeno sotto il profilo di religione. E ricordo invece che delle quattro città venete, Treviso fallisce sostanzialmente la missione storica della città medievale, per dirla col volpe, cioè appunto l'unificazione, l'assoggettamento del distretto. Perché questa differenziazione, questa peculiarità di questa città, nell'assenza di turbative esterne significative e in presenza di una cultura di governo e di un armamentario amministrativo omogeneo? Soprattutto per la diversa attitudine di Treviso rispetto alle altre città venete ad erodere le basi sociali ed economiche della signoria rurale, a scalzare appunto il possesso fondiario e i diritti pubblici dell'aristocrazia, no? Dell'aristocrazia. L'aristocrazia trevigiana resta anche nella seconda metà del 200 legata ai suoi castelli, addirittura in grado negli anni 20 del 300 di mobilitare esercitus, come dice un notaio cronista, autore di un libro di Provinzione Tarvisi per nobile, che appunto il titolo stesso è significativo. Non poteva farlo a Treviso nel periodo comunale, non poteva farlo neppure nel trentennio in cui fu soggetta alla signoria dell'unica superstite grande famiglia dell'aristocrazia rurale della regione Veneta, cioè dei Caminesi, potenti dalle Alpi all'Adriatico, che era appunto una famiglia che aveva nei castelli e nelle masnade, nonostante fosse radicata in città, le sue basi di potere. No? La signoria Caminese molto difficilmente può essere definita una signoria cittadina, quando controlla tre o quattro episcopati, una comunità montana come il Cadore, si estende appunto su un'area geografica così, così estesa. Ecco, questi esempi veneti si prestano, adesso cercherò di andare un po' più rapidamente, ad accostamenti e comparazioni interessanti con altre città padane. Un primo spunto ci è aperto proprio dal paradigma trevigiano della città debole, dal paradigma trevigiano della resistenza aristocratica, accostabile a certe realtà italiane e lombarde come Parma, Reggio o la stessa Reggio. Dalla documentazione trevigiana emergono per esempio delle testimonianze bellissime dell'affetto sviscerato, dell'amor illorum de contrata versus illos de camino, dell'attaccamento alla tradizione guelfa degli homines de masnata che minacciano la rivolta quando un da camino per tattica politica si vuole alleare con il capitale inimicus della casata, no? Oppure ancora la devota processione dei sudditi che scendono dal Cadore a rendere omaggio all'erede. Sono fatti apparentemente banali, superficiali, ma che in realtà valgono, sono più eloquenti appunto di molti documenti a spiegare la tenacia dura a morire appunto di queste solidarietà, no? Dalle signorie di Romagna di Lerner potrebbe riprendere anche se da Camino una celebre citazione del Salmo 121, si vale alto Manfredi aveva posto come epigrafe agli statuti della valle di Lamone, sapendo benissimo da dove veniva la sua potenza, le valli oculos ad montes, un remediet auxilium. Ecco, e spunti simili a questi del contesto caminese, diciamo, del contesto trevigiano, possiamo applicarli più in generale ad altri contesti signorili due trecenteschi, per esempio direi soprattutto alla feudalità appenninica, tante sulle città emiliane, ai Landi, a Pallavicino, agli Scocchi e a Fogliano. Leggendo le cronache piacentine del 2 e 300 si ha continuamente ricordo la menzione dei servientes probi e valorosi che appunto agiscono fino all'Andi non solo nei castelli dell'Appennino, ma si spingono in pianura appunto a sostenerne la politica. Quindi c'è questo primo esempio, c'è questa prima sfera, diciamo così, di comparazione che può essere importante. Un secondo spunto importante nasce dai forti parallelismi che ritroviamo in ordine al problema della rappresentazione del distretto nella dinamica di costruzione che noi riscontriamo nelle altre città della Padania orientale rette nel 200 a signoria autoctona. Anche a Mantova e a Ferrara, l'avvento del regime signorile, incrementa, favorisce, completa il conseguimento di una piena e matura organizzazione del distretto cittadino. È chiaro, anche ai Bonacorsi e agli Essensi, così come della Scala o più tardi della Carrara di Padova, mancava e non poteva essere altrimenti un'idea, una filosofia alternativa del rapporto alle città, del rapporto tra le città e il distretto, che si distinguesse appunto dall'impostazione comunale, no? E da questo discende forse la conseguenza che l'ordinamento che viene perseguito in queste città, in particolare a Mantova, a Ferrara, nella stessa Verona, è assolutamente orientale, non c'è un tentativo di ridisegnare e di razionalizzare circoscrizioni, ma il completamento dell'affermazione dell'autorità cittadina si risolve in una proliferazione non ordinata della presenza di vicari di potestà, in un'intensificazione quantitativa appunto della presenza fisica del comune, no? Non c'è, ripeto, quindi un atteggiamento mentale, una cultura diversa. Però va, credo, valutato più a fondo il fatto che questi uomini di grande intuito politico, Pinamonte Bonacorsi o Atto d'Este o Alberto della Scala o Francesco Silvecchio, non progettano, non creano nuove strutture di governo del territorio, alimentano e sfruttano qualcosa di ancora più importante. Aggregano, cioè, in positivo un clima di consenso e di identificazione fra signoria e coscienza cittadina, diciamo così, che crea o mantiene le condizioni per una fisiologica evoluzione dell'assetto istituzionale di matrice comune, no? Ecco, questo va al di là, c'è qualcosa di più del banale, che pure non falso né rilevante, dato del signore come pacificatore delle questioni. Ad esempio, per Padova, gli studi recenti della Collodo hanno dimostrato, mi pare molto bene, la capacità appunto della signoria carrarese di aggregare consenso civico, ed hanno appunto in concreto dimostrato proprio come in età carrarese prosegue senza soluzione di continuità rispetto all'età repubblicana questa costruzione del distretto. Del resto, appunto, mi è già capitato di citare qualche volta per quanto riguarda Verona, che il cronista di Sconteo, Pietro Azzario, nota stupito, omnes de Verona assunta della Scala, metà 300, avendo sotto gli occhi ben altri laceranti contrasti politici nelle città e nei distretti, lombardi. Ecco, ometto qui una serie di osservazioni relative ai distretti ferrarese e mantovano, che possiamo poi eventualmente riprendere nella discussione, e propongo, sempre sulla base di questi punti che ho sottolineato a partire dalla situazione veneta, che propongo un ultimo problema, no? Che riguarda una fase successiva, ma a questa connessa, del processo di costruzione statale. Qual è l'atteggiamento di un governo signorile verso il distretto cittadino di un'altra città soggetta? Quando un comune urbano si trova soggetto ad una dominazione signorile esterna, si pone evidentemente un grave problema per l'una e l'altra controparte. Indubbiamente, talvolta, in contesti di questo genere, si manifestano orientamenti alla destrutturazione. Utilizzare il distretto cittadino, altro, diverso, come serbatoio di feudi di signorie rurali per assegnare i propri sostenitori, come fanno per esempio di Este a Reggio nel 400, non è un'operazione che neppure nel secolo precedente si è potuta precedente. Tuttavia non è neppure raro che un comune cittadino soggetto ad un regime signorile esterno recuperi o addirittura completi e costruisca la propria autorità nel distretto. In questi casi agisce già il meccanismo, il patto non scritto, che in altra forma poi regolerà i rapporti fra centro e periferia negli stati regionali quattrocenteschi. centro dirigente del patriziato che egemonizza un comune urbano, accetta la subordinazione politica e assicura il consenso, avendo come contropartita un'ordinata amministrazione del proprio contrado, avendo come contropartita la tutela della proprietà fondiaria, il proprio privilegio urbano, in sostanza. No? Un caso di recupero, per esempio, è quello di Reggio Viscontea, dove il governo di Bernabò Visconti, a seconda negli anni 70, un'almeno parziale ricostruzione delle prerogative del comune urbano, giunto quasi al collasso di fronte a famiglie signorili assai aggressive e dinamiche. No? Il cronista reggiano arriva addirittura a dire, parlando del governo di Bernabò e poi di Angaleazzo, che Civitatis extraxit de inferno et reduxit al paradiso, ma anche se è certamente un ipertore da prendere con le mani. Ecco, un caso molto significativo di completamento di costruzione del distretto cittadino in condizioni di subordinazione politica è quello di Vicenza, che sotto la dominazione prima scaligera e poi viscontea lungo tutto il 600 completa la rete delle podesterie, come potremmo vedere poi anche nella cartina, porta avanti appunto l'ordinamento fiscale del distretto, introduce una normativa nazionale e via. Ecco, quindi il tempo purtroppo è già abbastanza abbondante. Ho cercato di delineare appunto le tendenze che si manifestano nella realtà e quegli elementi che possono suggerire appunto comparazioni o parallelismi interessanti in altre città dell'Italia padana sulla base di questa. Passo adesso a qualche annotazione, spero un po' più rapida, sui distretti cittadini lombardi. Ecco, per questo dobbiamo riconoscere che non c'è una particolare difficoltà a disegnare il punto d'arrivo della dinamica che ci siamo proposti di esaminare. Soprattutto le ricerche di Chitolini hanno sottolineato da diversi punti di osservazione le consistenti limitazioni all'egemonia urbana sul territorio che si riscontrano nello Stato regionale lombardo, nei contadi, nei distretti lombardi alla fine del 600 e poi soprattutto del 400. Possiamo schematizzare in tre punti, in tre elementi, la matrice di queste difficoltà. Il primo elemento è la separazione dal centro urbano di numerosi centri minori semiurbani, delle quasi città. Il secondo elemento è la sostanziale, o comunque notevole, autonomia dai distretti cittadini, di comunità e territori della fascia alpina e prealpina. No? Un terzo elemento, appunto, che vedremo svilupparsi nel corso del 300, è una capacità molto evidente degli organi di governo centrali dello Stato Viscontea di interferire nei rapporti tra i comuni cittadini e i loro distretti. Ora, tutti questi fattori, tutti questi elementi che a fine 300 appunto disegnano quel quadro particolarmente accidentato e complesso al quale accennavo, sono già in diversa misura operanti nella seconda metà del 200 e si intrecciano tra di loro in modo molto complesso, in un contesto politico generale, fra l'altro, che è interessato in modo molto più continuativo e duraturo rispetto alla marca trevigiana dalle vicende politiche generali e dalle vicende politiche nazionali complessive. Ecco, quanto ai borghi semiurbani della pianura lombarda, consistenza demografica, collocazione geografica ai fini del distretto, ai confini dei distretti o in diocesi diverse da quella del capoluogo, rapporti con grandi famiglie signorili attive nella zona, rapporti diretti con Milano, sono le precondizioni per sfuggire al rigido inquadramento nell'ambito del distretto cittadino. Si tratti di centri che già da tempo vantavano nel distretto cittadino di appartenenza a una posizione privilegiata, o si tratti di centri che proprio nella seconda metà del 200 acquisiscono qualche margine maggiore di manovra, c'è comunque appunto un fenomeno ricco e complesso di incremento appunto di queste autonomie, no? Significativo per esempio che parecchi di questi centri, come Monza, Treviglio, Soncino, Martinengo, ottengano Enrico VII o quello da Giovanni XXII, i primi del 300, privilegi proprio in dichiarata funzione antiurbana. E se recito appunto una rapidissima parentesi, il quadro dei distretti della marca trevigiana è totalmente opposto, perché solo Conegliano forse può vantare nei confronti di Treviso una parola sì, no? Altri centri anche cospicui, come una Monselice che nel 1280 conta 5.000 abitanti, no? Quindi un centro di notevole consistenza, resta pleno iure soggetta al comune di Padova e anzi viene configurata proprio in questo periodo, come abbiamo detto, la loro dipendenza. Quanto alle attitudini di istituzioni o partiti milanesi di operare su scala regionale e di interferire non solo in questioni intercittadine, ma anche nel rapporto bipolare tra le città e i loro contadini, questa è ovviamente un'eredità diretta della funzione egemonica della centralità regionale di Milano, già operante nel XII secolo e prima, sulla quale sono ritornati parecchi studiosi anche negli anni scorsi, e sulla quale tra l'altro concordano come su una comune sopiglio anche i cronisti trecenteschi. C'è un passo molto significativo di un osservatore esterno come Albertino Mussato, che si esprime proprio dichiaratamente in questi termini. Quanto alla montagna, che in vari distretti lombardi occupa un terzo o un quarto del territorio, essa per ovvi motivi geo-economici era stata già nel primo 200 renitente al controllo urbano in qualche misura e aveva esercitato una funzione destabilizzante all'interno dei singoli distretti, no? Significativo, in circostanze molto note, che a supporto delle grandi famiglie milanesi, che pure si appoggiano, come ovvio, sulle forze urbane, resta la disponibilità dei castelli prealpini e la forza militare talvolta decisiva del fidele Sultani. Per esempio nel 1287 sono fedeli viscontei della Valdossola che assaltano e distruggono il castello Sergio. Ecco, quindi c'è questa triplice serie di fattori, questa triplice serie di fenomeni che condiziona fortemente i rapporti tra città e contado nei distretti lombardi nella seconda metà del 200. Ma è ovvio che l'elemento fondamentale al quale tutti questi aspetti si riannodano è la robustezza, tutt'altro che spenta, in tutta l'area lombarda, nella seconda metà del 200 e del 300, di famiglie aristocratiche di vario livello e di vario radicamento. Di signorie rurali che fanno capo a famiglie di ascendenza comitale, a famiglie da nazioni di sovracittadini di ascendenza marginale come Pallavicini e anche su scala più ridotta a famiglie cittadine. No? Nel recente bilancio storiografico di Bordone ha confermato, direi, che mentre Milano ha goduto sotto questo profilo di una ricca tradizione di studi recenti, di storia familiare, per varie zone della Lombardia, quantomeno Como, Brescia, Pavia, la stessa Cremona, la situazione degli studi è sotto questo profilo appunto abbastanza deficitaria. Qui naturalmente non possiamo esemplificare, però mi pare per esempio un fatto estremamente significativo di un clima, di un contesto che una famiglia che basa la sua potenza politica sulle forze cittadine come vittoriani, no? Ora a fine 200, attorno al 1270-1280, si crea ex novo una signoria di castello a Turbigo fra Milano e Milano. Questo significa che la prospettiva di usare quello strumento di organizzazione del territorio era praticata, consueta, no? Non era solo un elemento in qualche modo residuale, no? del passato. E credo che anche una ricognizione delle stesse signorie ecclesiastiche, per esempio nell'Oltrepò Pavese, nella bassa pianura bresciana, oltre che nella Lombardia settentrionale, mostrerebbe appunto una una notevole. No? E questa situazione è destinata a non modificarsi in tempi brevi, anche nel corso del 300 di contea. Se noi scorriamo la legislazione di contea e anche gli stessi statuti cittadini, non è un caso che ci si occupi di castelli appartenenti alle famiglie signorili proponendone la distruzione e il disarmo. Non è un caso appunto che si faccia riferimento, come accennavo, ai servientes, probi e fortes delle masnate montane. Non è un caso, per esempio, che nella documentazione fiscale lombarda del 300, le posizioni di privilegio fiscale della nobiltà rurale, dei gentiles, no, siano difese in qualche modo, siano riconosciute in misura molto maggiore di quanto non accada, per esempio, appunto nei distretti in breve, è facile capire che il vario combinarsi di questi elementi, tutta questa serie di complicazioni, ha ripercussioni importanti e notevoli sull'organizzazione territoriale omogenea ma superficiale, verso la quale anche i comuni lombardi si erano orientati nella prima metà del 200. Qui il giudizio, la differenziazione tra i vari ambiti, tra le varie situazioni locali è molto difficile. Per esempio, per Bergamo si ha l'impressione che ci sia stata un'effettiva repressione del controllo cittadino sul contado a partire dalla fine del 200, quando le rivalità fra Bergamo e Suardi si collegano con quelle tra Visconti e tra Visconti vittoriani. E in effetti la degenerazione, la distruzione del distretto bergamasco del 300 è veramente impressionante. Si arriva nello statuto del 1333 a sopprimere potestarie del distretto, le quali si afferma in distrittu Pergami usitabantur rector actis temporibus ad tirantini del rito personam distrittus. No? Alla fine questo non poteva non produrre la separazione delle valli e quindi l'autonomizzazione vasta delle vallate alpine dal contrado, ma non solo, l'autonomia anche di delle grandi podesterie di pianura come Romano e Martinello, dello Stato Veneto del 400, mi pare Romano, che appartiene pur al distretto del Damasco, se Martinello fa regine, va in appello a Brescia, le sentenze vanno in appello a Brescia, ed è un fatto appunto abnorme, evidentemente, che si collega a questa preistoria. Per Brescia, che invece è una semplice impressione, ma ci si può fare, credo, l'idea che anche lungo il corso del 200 aree importanti come la Val Camonica e soprattutto forse la Riviera Cartesana non siano mai state controllate in modo effettivo, no? Il caso della riviera di Salò, la riviera Cartesana, è pure molto significativo. La riviera tra il 1338 e il 1350 trova una sua autonomia con l'avallo e con la presenza di magistrati veneziani, cioè una serie di podestà veneziani che di fatto collaborano alla definizione di statuti, alla ripartizione delle sedi giurisdizionali, cioè in totale autonomia rispetto al centro. Brescia, che pure nel corso del 200 aveva combattuto le sue brave battaglie per battere le famiglie del ceppo comitale, per controllare la signoria dell'episcopio e via di questo passo, no? Come sempre i giudizi esterni sono interessanti, c'è il cronico Guelfo Ghibellinum che, parlando di Brescia nell'anno 1269, dice: la parte estrinseca tiene quasi totum episcopatum contra illos de civitate et vallem canoni eccetera loca exceptis quatuor quinque castris quelli di civitate tenent. Ecco, omento qui di trattare appunto in modo analitico, in modo preciso, delle città emiliane, delle quali si è occupato appunto ampiamente Tuttorini in molte ricerche appunto che che conoscete. Ricordo alcuni dati relativi a Reggio. Reggio è considerata una città che è venuto Rambaldi da Imola nel 1370, nella seconda metà del 600, considera il Magno Flore nell'età di Dante, ma nel 1371, appunto al momento della conquista di Scontea, può essere giudicata appunto in via di estinzione, con i cittadini dispersi per l'universo, peggio degli ebrei, del tutto priva, e non era vero, del proprio contatto, frazionato tra le dominazioni cittadine, no? Del resto, l'obbedienza generalis del distretto alla città, prout fit ferrarie, bononie, mantue, et ceteris civitatibus se bene regentibus, per il comune di Modena, che tratta nei primi decenni del 400 con i signori d'Este, è un miraggio, è un obiettivo irraggiungibile, e c'è appunto piena consapevolezza di questo, così come c'è piena consapevolezza che obbedienza generalis del distretto e se bene regge sono più o meno la stessa cosa. Mi scuso appunto per questa lunga elencazione di dati, di fatti, che comunque è troppo breve rispetto alla complessità dei problemi e delle situazioni, no? Ecco. Ma è necessario appunto, direi, ribadire l'idea banale che si vuole, ma non per questo meno vera, che per l'altra parte della Lombardia e dell'Emilia-Trecentesca il comune cittadino è solo la principale, non l'unica forza in grado di organizzare in modo funzionale un territorio, appunto nella seconda metà del 200 e nel 300, no? Quel processo di estenuazione, di esaurimento, di svuotamento del particolarismo signorile che in altri distretti cittadini padani, come in particolare appunto identificato con Padova e Vicenza, aveva subito nel 300 una forte accelerazione, quel processo di estenuazione che aveva posto le premesse della trasformazione, dell'affermazione di sovranità decentrata del comune in una più compiuta organizzazione amministrativa, questo processo di estenuazione, dico, qui segue ritmi molto più lenti, molto contrastanti, a arresti, a inversioni di tendenza, subisce le interferenze del governo danese. Non è naturalmente che dobbiamo pensare ad un tracollo delle città, anche se devo dire è difficile dare giudizi, perché per la storia, adesso cittadini poi magari mi correggeranno, per la storia di Modena, di Reggio, di Parma, nel 300, dei comuni cittadini, non si hanno riferimenti bibliografici precisi. Quindi è difficile farsi un'idea anche dei modi con i quali il ceto dirigente sentiva o viveva questa situazione e anche delle contromisure che in qualche misura potesse prendere, ad esempio sulle porzioni di distretto che in qualche modo venivano ancora aggiornate. Non dobbiamo pensare, dicevo, a un tracollo delle città, ma dobbiamo invece, e a maggior ragione appunto in quest'area lombardo, scontea, emiliana, distinguere meglio i piani dell'organizzazione del distretto, no? Riprendendo quelle tematiche alle quali avevamo accennato. Per queste città, per esempio, è nel 300 non meno difficile di quanto non fosse agli inizi del 200 presentare un quadro delle sedi giurisdizionali minori regolarmente associate. Nei distretti più estesi, a Pavia, Cremona, Piacenza, si individuano dalle 7 alle 10 podesterie o vicariati, più o meno stabilmente posticiate, in genere con giurisdizione civile e limitata di giurisdizione criminale. Sedi periferiche, in ogni caso, di cui i titolari sono designati non dai consigli cittadini, ma dal governo del contea. Ecco, il solo tratto comune, forse, che mi è riuscito almeno di individuare sul lungo periodo, in particolare nella seconda metà del 300, è un orientamento molto diffuso che riguarda, credo, tutta Italia e anche la Toscana, alla istituzione, nella seconda metà in particolare appunto del 300, di magistrature di polizia itineranti, di capitani del divieto, di ufficiali appunto addetti alla tutela dell'ordine pubblico, non legati ad una sede, ma in qualche modo appunto itineranti del distretto. Dicevo, non dobbiamo pensare a un'altra cosa di criticità, e ce lo prova un elemento estremamente importante, estremamente significativo, nel quale l'ordinamento cittadino duecentesco, anche in Lombardia e in Emilia, manifesta una straordinaria capacità, no? E è il settore fiscale. In una recente miscellanea comparativa su fiscalità di genese dell'età moderna in Europa, l'esperienza italiana era di fatto assente. E forse ha ragione, perché nel 300 lombardo e padano in genere non ci sono innovazioni sostanziali nel sistema di previsto. Ecco. E è vero, il boom delle entrate fiscali nel 300 è un fatto generalissimo in tutta Europa. Ciò non di meno si resta stupiti delle capacità, di quelle elementari, in fondo, strutture fiscali che i comuni cittadini lombardi avevano creato, come altri all'inizio del 200, di rispondere ad una domanda che è cresce qui come altrove, ma anche qui in misura esponenziale. No? Cito un solo dato: nel 1687 e 1688 le città del dominio visconteo sono in grado di pagare, per la doppia dote di Caterina Visconti, una quota extra di 900.000 fiorini, oltre ai tributi ordinari, pari all'80% dell'entrata complessiva annua del dominio. Questo da cosa dipende? Certo, dipende dalla cura che la signoria milanese dedica al settore, dalla creazione della rete dei referendari, dell'apparato finanziario locale, no? Ecco, ma dipende anche appunto dalla capacità, dalle notevoli potenzialità appunto che questo sistema mantiene, dal modo appunto con il quale viene fatto funzionare. Sarebbe molto interessante, credo, andare ad analizzare proprio la fiscalità di base, non solo la rete degli ufficiali finanziari, dei referendari, appunto, come pure è stato fatto. E a questo riguardo c'è un altro elemento significativo da ricordare. I signori Viscontei nel corso del 300, pur avendo già elaborato gli strumenti concettuali e normativi per superare le fiscalità distrettuali, l'esistenza di estimi del territorio circoscritti, limitati all'ambito cittadino, no? Non concretizzano mai appunto queste scelte. C'è un famoso decreto del 1345 di Luchino Visconti che ferisce in linea di principio il fondamentale principio della esclusiva del comune cittadino nella estimazione dei beni dei propri cites, e pone le premesse per una estimazione incrociata, nel senso che il comune di Lodi può estimare i beni dei cittadini cremonesi ubicati nel territorio di Lodi, no? Ma non si arriva mai appunto a concretizzare questo decreto che spunta fuori appunto nell'età di Gian Galeazzo Visconti, ma ci si arresta sempre appunto di fronte alla consapevolezza, alla necessità appunto di accettare il fatto che il comune cittadino è l'elemento imprescindibile appunto dell'organizzazione postale. Ecco, questa, come dire, incapacità, direi, questa assenza di una visione strategica, questo ritirarsi anche in Gian Galeazzo Visconti, questo oscillare di fronte alla prospettiva di una compressione reale delle prerogative cittadine, noi così la potremmo riscontrare anche in altri settori, no? Ecco, quindi c'è una forte capacità da parte del governo visconteo di intervenire nei rapporti tra città e distretto, di inquinare, diciamo così, quei rapporti lineari che invece in altri comuni cittadini padani, come abbiamo visto, si sviluppano, ma non c'è mai, questo appunto deve essere chiaro, deve essere una cosa abbastanza ovvia, non c'è mai quella concezione nuova dello Stato territoriale, che pur senza digitarla appunto viene sostenuta per la Toscana, non c'è quella inventiva amministrativa, quella libero fare e disfare, ordinamenti territoriali, leghe, capitaniati e pivieni che porta a creare appunto nello Stato fiorentino raggruppamenti nuovi nel nome delle competenze. Non c'è neppure, come dire, un dibattito serio sulle strutture fiscali. Oggi è di moda il revisionismo, il trattato fiorentino del 1427, ma è il dubbio che al di sotto dell'impostazione c'era una forma mentis che appunto negli altri stati regionali italiani dell'epoca è assolutamente attivata di vita, no? Il discorso sarebbe interessante e lungo a questo riguardo, no? Anche l'orientamento ad allargare a tutte le città del dominio in quanto soggette ad un medesimo dominus e l'efficacia del bando, no? A un solo distretto, non è mai portato alle ultime conseguenze. C'è il signor Rolomo Dei che sviluppa questo concetto in un passo credo abbastanza famoso, ma anche sotto questo profilo non si fa mai appunto il salto di qualità. E capita allora, paradossalmente, visto che questo è l'atteggiamento di fondo della signoria Visconteo, in particolare di Gian Galeazzo del 1800, capita allora paradossalmente che specialmente nelle regioni periferiche dello Stato, dove fuori della Lombardia vera e propria, dove i suoi strumenti di intervento diretto e personale nei rapporti di potere locali sono minori, no? Capita allora paradossalmente che appunto Gian Galeazzo Visconti possa apparire sia di fatto il restauratore delle prerogative cittadine, no? Prendiamo per esempio i provvedimenti che prende ad Asti nel 1387, vediamo soprattutto nel dominio visconteo del Veneto, di Verona e di Vicenza, che anziché essere appunto una stanca appendice, una stanca parentesi tra le dominazioni signorili e la dominazione signorile autoctone e l'abbraccio con il leone di San Marco, è in realtà un'esperienza molto importante durante la quale i comuni di Verona e di Vicenza assestano o riassestano appunto aspetti importanti del loro governo territoriale. Ecco, omento un breve passo appunto che avevo inserito della giornata dell'organizzazione del territorio bolognese e concludo in due minuti scusandomi appunto dell'eccesso. A fine 300 il processo organizzativo dei distretti cittadini padani, che aveva preso le mosse dopo la pace di Costanza, si presenta anche in questo panorama non completo, estremamente sommario, abbastanza diversificato e vario, pur nell'impronta indelebile ed unitaria che la rivoluzione comunale, la sua spinta propulsiva, avevano impresso al quadro istituzionale. La seconda metà del 200 è sembrato un momento importante per la definizione di queste differenti tendenze evolutive. E allora che si innescano o non si innescano, processi destinati a svilupparsi in modo contrastato nel 300. E allora che si innesca o non si innesca la definitiva marginalizzazione e o la scomparsa di forme organizzative alternative del territorio come la signoria rurale. E allora appunto che prende le mosse, o non prende le mosse, o le prende con ritmi diversi, quel processo di intensificazione, di concretizzazione organica e compiuta dell'autorità cittadina in tutti quei settori che sin dal primo 200 erano stati al centro dell'attenzione del ceto dirigente. No? Su questa dinamica influiscono fattori diversi da area ad area, da città in città, con esiti che in parte sono ancora certamente da precisare. In ogni caso l'eredità che viene consegnata ai due stati regionali, Veneto e Lombardo, che si affermano nell'altra parte dell'area qui presa in considerazione, è abbastanza diversificata nei due casi ed è comunque in larga misura non modificabile nelle sue caratteristiche di fondo, se non su tempi molto lunghi, ben dentro l'età moderna e per certi aspetti, come tutti sappiamo, addirittura fino alla rivoluzione francese.